la versione di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio cari ascoltatori, buon martedì 11 di marzo e siamo qui dagli studi di Radio 24 di Milano e l'argomento della puntata, aspettando per così dire il Consiglio dei Ministri di domani, carico di tante attese, ne abbiamo parlato anche alla trasmissione di ieri, però nel frattempo l'argomento della giornata è uno dei, per così dire, classici argomenti che testimoniano come nel nostro paese, al di là di tante buone intenzioni e di tante ricorrenti litanie a favore della legalità, per l'impegno pubblico da questo punto di vista contro la grande criminalità, le mafie, l'andrangheta, la camorra, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, la puntata di oggi è dedicata a una disponibilità che è venuta dalla società civile, dal basso, per dare una mano allo Stato a fare meglio quello che evidentemente non sa fare, ed è purtroppo la riproposizione, lo sentiremo dalla nostra ospite, di come lo Stato non solo non riesce a fare bene quello che promette di fare e che gli tocca fare secondo il nostro ordinamento, ma soprattutto poi delude anche le disponibilità di cittadini che si mettono a disposizione per consentire allo Stato di fare quello che non è in grado di fare. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di uno dei grandi problemi irrisolti della lotta alla criminalità e alle mafie. Leggete ogni tanto sui media i rapporti delle centinaia e centinaia di imprese confiscate, secondo le possibilità consentite e affinate nel tempo nel nostro ordinamento, dalla magistratura in campo di indagini penali contro le reti criminali. Ecco, sono centinaia e centinaia, anzi migliaia, le imprese insieme a patrimoni che vengono confiscati, e naturalmente per queste imprese si tratta di consentire che nel sequestro giudiziale che poi scatta continuino ad andare avanti o migliorino, che insomma vengono amministrate come imprese da questo punto di vista, e naturalmente lo Stato per questo le risorse, le capacità manageriali, le competenze non ce l'ha, e quindi è diventato nel tempo uno dei problemi più ridicolmente irrisolti, quello dei sequestri di queste aziende, di questi patrimoni, che invece di fruttare nella legalità diventa poi uno dei classici esempi del fallimento dello Stato, che sequestra queste cose però le fa decadere. Ecco, e allora di fronte a questo c'è stata una disponibilità, è una disponibilità che a me sta molto a cuore, perché anni fa mi sono dato da fare con alcune organizzazioni anche del mondo di rappresentanza dei manager italiani, con Manager Italia e Federmanager, dicendo: ma perché non vi rendete disponibili attraverso i vostri associati, in maniera che siano i manager delle imprese private, magari anche quelli che nella crisi poi perdono lavoro, ma non solo loro, a rendersi disponibili, a farsi selezionare con un protocollo diretto da parte delle amministrazioni pubbliche per mettersi poi alla testa di queste imprese sequestrate. Ecco, oggi parliamo esattamente di questo, però state ad ascoltare quanto è paradossalmente malinconica, purtroppo, questa vicenda e il suo amaro bilancio. E io voglio ringraziare l'ospite che ha accettato di venire a parlare con noi, Paola Pastorino. Buon pomeriggio e grazie di essere qui con noi. Beh, grazie a lei, Oscar. Io sono, diciamo, onorata di avere la possibilità di portare una voce. Allora, e ci racconti questa voce, come nasce, ci racconti un pochino il progetto che vi ha visto insieme a tanti suoi colleghi protagonisti da questo punto di vista. Quando è nata in voi l'idea di rendersi disponibili? Allora, intanto le dico una precisazione: noi facciamo parte di Federmanager, sì, il quale Federmanager ha in Lombardia l'associazione che è Aldai, che è l'associazione dei dirigenti industriali lombardi, che è di Federmanager. Quindi Federmanager probabilmente ha raccolto un invito che è stato fatto. Ancora con Asso Lombarda ha incontrato in Asso Lombarda l'onorevole Maroni, a quando ancora era il ministro dell'interno. Esatto, quindi nel 2011 questa iniziativa ha preso il via grazie anche alla collaborazione con l'Agenzia Nazionale di Beni Sequestrati e Confiscati, parte Nord Italia, perché ovviamente il focus per noi era a livello lombardo. Come lei sa, anche in Lombardia abbiamo cosche mafiosi che operano da decenni. Ecco, quindi tutto questo ha portato nel 2012 al DAI, a Solombarda, e l'Agenzia Nazionale a effettuare un iter di selezione selezione che ha visto coinvolti 260 dirigenti, sui quali poi è stata fatta una selezione molto complessa, addirittura ci sono state delle verifiche anche ambientali, quindi ci siamo stati radiografati, e su questi 63 manager selezionati hanno seguito un percorso formativo e sul campo con delle primarie scuole di formazione manageriale. Io sto parlando di Istud, della Fondazione Istud, che era capo progetto del progetto, di Sda Bocconi, di Lewis Business School. Abbiamo lavorato in gruppi di 5-4 persone in team, lavorando non solamente studiando, come si suol dire, e avendo l'opportunità di ascoltare dei magistrati di misure preventive, la formazione su che cos'è la legge, il codice antimafia e così via. Abbiamo parlato anche con amministratori giudiziari. Insomma, è stata una formazione di parecchie giornate con lavoro a casa, si può dire, e la parte finale di questa nostra attività è stata un'attività sul campo. E infatti noi abbiamo lavorato, noi 63 divisi in gruppi, in 14 aziende confiscate, quindi abbiamo fatto un'attività sul campo che ci ha permesso di vedere con gli occhi, toccare con mano, capire la percezione che c'è dentro un'azienda di queste, parlare con amministratori giudiziari che stanno gestendo queste aziende, e quindi fare che cosa? Fare il nostro lavoro, perché ovviamente noi come manager, dirigenti d'azienda, con livelli di seniority elevata, perché siamo tutti sopra i 53 anni, più o meno come età media, intendo, capisce bene che abbiamo dei ruoli abbastanza apicali, vuole direttore generale, vuole amministratore delegato, vuole direttore di funzione, quindi di sviluppo del business, di operation, di finanza. Quindi noi ci siamo uniti in team, abbiamo imparato a lavorare insieme, abbiamo analizzato la situazione aziendale, la situazione di mercato, quindi il posizionamento delle aziende, i conti di queste aziende, l'analisi dei fornitori, per capire effettivamente la relazione con le banche, la relazione con i comuni e con gli stakeholder della realtà in cui lavoravamo. Ed effettivamente sono usciti a fine di luglio 14 report abbastanza nutriti e dettagliati, che hanno dato delle visibilità e degli scenari di punti di forza, punti di debolezza su quello che poteva essere la destinazione dei beni. Erano imprese queste nelle quali vi siete immersi semplicemente per studiarla meglio e dare un po' di idee? In quali settori erano attive? Di che tipo di dimensioni erano? Allora, intanto erano sia industrie manifatturiero, sia hotel, io per esempio ho lavorato in un hotel, sia ambito sanitario, sì. E come queste, diciamo, quindi multisettoriale, come aziende erano un campione veramente significativo delle aziende italiane. Non c'era la grande azienda Parmalat, sì. Ma c'erano 14 aziende delle piccole e medie, certo. Piccole e medie aziende che sono il 99% e più delle aziende italiane, quindi un campione significativo multisettoriale con dipendenti che potevano essere più di 10 o più di 50, quindi ancora anche in questo caso fatturato che era sotto i 50 milioni di euro, quindi anche in questo caso proprio un target della classica imprenditoria italiana. Oh, e allora voi, ecco. Questa attività che compivate, naturalmente voi continuavate a lavorare nei vostri incarichi, nelle vostre imprese, quindi lo facevate nel tempo libero. Certo. Ecco, quindi. Ci prendevamo ferie, voglio dire. Prendevamo ferie e dopo. No, ma questo per dare l'idea, non è che improvvisamente aveste smesso perché lo Stato vi consentiva di farlo. Nel tempo libero aggiuntivo avete fatto questa specie di full immersion in queste 14 imprese e poi avete fatto questi report. E dopodiché che cosa è venuto? Abbiamo avuto l'opportunità di incontrare il direttore Caruso, abbiamo avuto l'opportunità di parlare con Prestipino, abbiamo presentato all'Agenzia Nazionale tutti i nostri lavori, sono venuti da Palermo, da Reggio Calabria, ovviamente c'era il responsabile dell'Agenzia Nazionale Nord Italia, il dottor Trabace, che era un po' lo sponsor. Quando lei parla di Agenzia Nazionale, questo per consentire ai nostri ascoltatori, è l'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati, ecco questo per capire. Corretto, stiamo parlando ha ragione. Di questo. Ecco. Ha ragione, che poi è l'entità giuridica statale che prende in carico questi beni e poi deve, come dire, delegare a chi di dovere, dopo la nomina del tribunale, del giudice delegato, a degli amministratori, a degli amministratori giudiziari, poi consegna il bene, perché è questo l'entità che si preoccupa di fare questo lavoro. Quindi in sostanza abbiamo avuto risultati e scommenti, devo dire, detti da altri positivi. Noi abbiamo identificato che con un certo impegno di natura economico alcune di queste aziende potevano andare avanti, diciamo, in ottica non di conservazione del bene, ma di sviluppo, di sviluppo, perché il punto chiave è proprio questo. Noi siamo perfettamente d'accordo con quello che dice Vincenzo Molisso. Molisso già nel 2012 diceva che stante la situazione attuale, economica, politica, di mancanza di lavoro, di crisi tremenda, l'amministratore giudiziario deve diventare il coordinatore di manager. Esatto, e il problema era che a quel punto ci si aspettava, dopo quello che avevate sul campo fatto, che qualcuno appunto degli amministratori giudiziari individuati dal tribunale per queste imprese si avvalesse sistematicamente da quel momento in avanti delle vostre competenze, della vostra disponibilità. E invece è quello che è avvenuto? Ahimè no. Ecco, adesso siccome ci dobbiamo interrompere per 60 secondi di informazione stradale, questo è il punto di fondo. Avete sentito? Disponibilità, una selezione, 63 manager che si mettono a disposizione, concentrano il fine settimana nelle ferie, non solo i corsi, come ovvio, per impadronirsi dei fondamentali dell'ordinamento giudiziario, eccetera, eccetera, studiano le imprese nelle quali ci si aspetta che a quel punto colui che è designato dal giudice, una volta che i manager si sono fatti avanti, dicono bene, allora mi dai una mano operativamente sempre, e invece lo Stato dice no. Grazie, ma non sappiamo cosa farcene di voi. Adesso 60 secondi sulle strade e poi riprendiamo con la nostra ospite. La versione di Oscar. Eccoci qua, tornati in questo martedì 11 di marzo a parlare del tema di questa nostra puntata. Il tema, come avete capito, è quello della incapacità dello Stato di fare il miglior uso delle tantissime aziende sequestrate, confiscate alle mafie di tutti i tipi. Abbiamo raccontato questa storia con noi Paola Pastorino, manager che insieme a decine e decine di manager in Lombardia si è reso disponibile direttamente con i responsabili nazionali dell'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati, con i magistrati. I manager sono stati selezionati, hanno capito bene quali sono le caratteristiche ordinamentali con cui avere a che fare quando c'è un amministratore giudiziale indicato dal tribunale, hanno studiato queste 14 imprese, un campione di imprese, l'abbiamo sentito, che fotografa in realtà in maniera sufficientemente fedele le diverse tipologie di imprese italiane, se non che, fatti i loro report, lo Stato se li è chiusi nel cassetto e non è avvenuto più nulla. Ecco, Paola Pastorino, lei che idea si è fatto? Da che cosa è dipeso che poi nulla è seguito? Diciamo che io, più che da cosa dipeso, che è una situazione abbastanza complessa, io non vorrei che gli ascoltatori pensassero che la gestione dei beni confiscati sia una cosa banale, immediata, che è complessa e articolata. Attualmente in Italia ci sono due scuole di pensiero, mi lasci dire questo, e cioè due approcci. C'è intanto una consapevolezza che la situazione del codice antimafia così com'è non va più bene, per cui questa è una consapevolezza nota. Quindi diciamo che va nella direzione di cui le ho detto io, quindi la consapevolezza che l'amministratore giudiziario che lavora in ottica conservativa non va più bene. Ora però attualmente ci sono due scenari abbastanza contrapposti. Uno è quello che dice, insomma, queste sono aziende che si sono andate avanti attraverso dei fondi, dei soldi della malavita, con connivenze interne che non vanno mantenute, quindi azione drastica, chiudiamo le aziende. Meno sembra una buona trovata, devo dire la verità. Io sono dell'idea che le imprese a quel punto bisogna semplicemente escludere ogni elemento tipico della gestione o dell'aiuto mafioso o anche nel reperimento dei capitali, ma santo Dio, le imprese sono un bene e devono andare avanti e continuare a svilupparsi. Corretto. Ma infatti io voglio portarle la nostra testimonianza. Noi abbiamo lavorato in aziende confiscate, ma non c'erano più la magistratura e le varie entità giuridiche hanno tagliato i ponti con. Quindi sostanzialmente bisogna salvarle queste aziende, ma salvarle non a tutti i costi. Quindi bisogna salvarle laddove è possibile ed è opportuno salvare le aziende. Noi per esempio in un caso sul quale abbiamo lavorato ipotizzavamo di ristrutturare il business perché un albergo a ore non è forse la cosa migliore da supportare, pensavamo di portarlo in albergo a 3-4 stelle, se per caso c'era un esubero di persone si pensava di riallocare questa persona in ambiti diversi. Quindi voglio dire, la seconda ipotesi è invece quella di creare un coordinamento in modo tale che ci sia un peso opportuno a livello di visibilità dell'Agenzia Nazionale che sta facendo un lavoro e che deve continuare a lavorare, con probabilmente, io penso, noi come coadiutori che in qualche modo possiamo dare una mano operativa alla gestione. Certo, però siamo ancora fermi a livello delle proposte, per così dire. Non era possibile, secondo lei, che al di là delle proposte, l'affiancamento immediato a qualcuno degli amministratori giudiziali avvenisse dopo che voi avevate presentato la relazione? Capisco il suo punto ed è stata una domanda che ci siamo fatti. L'anno scorso devo dire la verità che noi abbiamo atteso, abbiamo aspettato pensando che le cose con i nostri tempi si muovessero. Poi ci siamo resi conto che se non facevamo qualcosa noi e ci mettevamo anche noi la faccia, la cosa non sarebbe cambiata. Devo dire che dopo le vacanze estive ci siamo raggruppati in un sottoinsieme dei 63 e stiamo portando avanti un discorso di entità giuridica e quindi di associazione. Siamo in contatto con enti locali, con amministratori giudiziari, in modo tale da creare quelle possibili opportunità che vengono anche dal conoscersi e dal mettere a fattor comune competenze che sono tutto sommato complementari. Perché poi oltretutto non solo è un enorme peccato non portarle avanti queste imprese, come imprese ordinarie, come tutte le altre, decidendo caso per caso cosa farne, ma il problema è che poi rimangono in carico, sono migliaia e migliaia di immobili, i beni strumentali di queste imprese che rimangono in carico agli enti locali e rappresentano per di più un costo, per cui gli enti locali con la finanza che hanno a quel punto ci rimettono oltre a non farle andare avanti come imprese, così. Oscar, lei ha detto un'altra cosa molto importante, perché anche su questo noi abbiamo una proposta che devo dire stiamo vedendo col presidente della commissione antimafia del Comune di Milano, che ci sta dando spazio, ci sta ascoltando. Quindi e anche in questo caso, con la penuria di soldi che c'è nelle casse degli enti comunali, questi enti si trovano a dover gestire dei beni immobili che sono dei costi. Allora noi diciamo, la legge già oggi prevede che possa essere destinato un bene a uso non diciamo solo senza scopo di lucro, ma anche a scopo reddituale. Allora, qui si tratta di prendere certi beni che hanno un valore intrinseco di un certo tipo, non certo il box o l'appartamento, ma ci sono dei beni che sono confiscati, che potrebbero diventare gli alberghi, che potrebbero diventare le palestre. Allora noi come manager diciamo, diamo una mano agli enti locali a mettere a reddito questi beni, in modo tale che l'ente locale li può affittare a costi, cioè con un ricavo, certo. E con quello magari evita di fare anche delle ristrutturazioni pesanti. Quindi facciamo lo start-up di iniziative che insistono su un territorio, creando valore anche sul territorio. Senta, dottoressa Pastorino, se c'è qualche manager in ascolto che volesse prendere contatto con la vostra rete associativa, dove vi trova? Come fa a trovarvi su internet? Allora sì, intanto io posso dare la mia mail, sì. La mia mail è paola.pastorino, sì. chiocciola managerwhitelist.org. Managerwhitelist.org. Ecco, io lo dico perché tutti coloro che sono in ascolto, perché vedo che arrivano dei messaggi, secondo me questa modalità, cioè il fatto che manager di consolidata esperienza di vita privata, vita professionale nelle aziende, si rendano disponibili per quelle competenze tecniche che lo Stato non ha, è una delle vie di sussidiarietà dal basso per dare efficienza attraverso una prova costante e personale di disponibilità. Che lo Stato non utilizzi queste competenze, che tenga la porta chiusa sacrificando poi imprese e occupati di quelle imprese che sono incolpevoli, mica dipendono, dipendevano dalla mafia e così via, è l'ennesima riproposizione del disastro italiano. Lasciatemelo dire, viva Paolo Pastorino e chi tenta di dare una mano allo Stato, che in questo caso, mi dispiace dirlo, non se la merita. Continuate su Radio 24, grazie a Paolo Pastorino e appuntamento con me domani.